Nella lezione di Halakha del nostro corso Kolel Torah stiamo studiando le regole riguardanti la Amidah. A proposito, perché non si è ripetuta l'Amidah? Ma un attimo solo. Perché non? Si è ripetuta l'Amidah. Perché non c'era Minyan. Non c'era Minyan. Ok. Stiamo leggendo, studiando le regole che riguardano la Amidah. Abbiamo parlato già della direzione nella quale bisogna porsi, abbiamo parlato già se è permesso tenere qualcosa in mano e come bisogna pregare a livello di volume della voce. Abbiamo visto diversi aspetti della tefilà, gli orari, come bisogna stare in piedi, eccetera. E si possono ripassare sentendo le lezioni precedenti già registrate in precedenza. Ora arriviamo ad un'altra norma che riguarda l'Amidah, al paragrafo 11 del capitolo 18 del Kitzur Shulchan Aruch, quindi è il Kitzur 18-11, e queste norme adesso riguardano gli inchini che bisogna fare mentre si fa l'Amidah. Noi vediamo che si fa l'Amidah e durante l'Amidah ci sono dei punti in cui bisogna inchinarsi, e noi oggi studieremo quali sono precisamente questi punti, come si fa questo movimento durante l'Amidah. Allora, l'Halakha dice, leggiamo il testo. Tzarich, bisogna, lichroa o leishtachavot. Bisogna, il primo verbo lichroa vuol dire piegare le ginocchia, o leishtachavot vuol dire inchinarsi. Dalet peamim, cioè quattro volte, bishmonesre, nel corso della tefilah dell'Amidah, abbiamo quattro punti in cui bisogna inchinarsi. Quali sono questi quattro punti? È adesso indicato in maniera estremamente semplice. Betchilat beracha rishona u besofa. I primi due sono betchilat, all'inizio della beracha rishona, della prima benedizione della Amidah. L'Amidah è formata da una serie di benedizioni. L'inizio della prima, quindi Baruch ata. Baruch si piega le ginocchia. Ata si inchina. E poi quando si dice il nome di Hashem già si sta retti, dritti. Ube sofa, ed alla fine della prima beracha, di nuovo Baruch ata Hashem, Magen Avraham, che è la conclusione, la chiusura della prima benedizione dell'Amidah. Queste sono le prime due. Ube birkat modim betchilata ube sofa. Inoltre, verso la fine dell'Amidah, non è la fine proprio, ma verso la fine, è la berachà del modim, la berachà del ringraziamento. Iniziamo il modim inchinandoci e concludiamo la stessa berachà di modim, Baruch Ata Hashem, Hatov Shimcha Ulecha Nae Lehodot, anche inchinandoci nella stessa maniera, che sarà però ora chiarita la maniera. Keshe Omer Baruch, cosa vuol dire il piegare le ginocchia ed inchinarsi? Ora lo spiega, appunto. Quando dice la parola Baruch, come già vi ho alluso prima, Korea bebirkav, ci si piega le ginocchia, mentre si dice la parola Baruch, quindi Baruch con le ginocchia che scendono, e poi, o che sheomer atta, quando si dice la parola atta, mishtachave, si inchina, cioè si piega la schiena questa volta, kol kach, fino a che punto bisogna inchinarsi? Fino al punto shea kesharim shel chuliot ashedra boltim, finché le giunture delle vertebre sporgano. Quando una persona si inchina così, allora se fosse a schiena nuda si vedrebbero le giunture delle vertebre, vero? Ok, quindi non è che bisogna vedere le giunture delle vertebre, bisogna inchinarsi in quella maniera che si vedrebbero le giunture delle vertebre, e ovviamente flettendo anche la testa, vegam rosho yachov, quindi chinando la testa e la schiena. Questo adesso che dirà, molto importante, già l'ho alluso prima, ve kodem she amar et Hashem, prima di pronunciare il nome di Hashem, kodem she omer et Hashem, prima di pronunciare il nome di Hashem, zokef, si raddrizza benachat, lentamente, quindi non un raddrizzarsi così in maniera improvvisa, graduale. Ma graduale, lentamente, con rispetto. Media, Per me è ideale, c'ho la schiena a pezzi. Ah. Al-Shem Shenemar, questo raddrizzarsi ci ricorda anche quanto è detto nei Salmi. Shenemar Hashem Zokef Kefufim. Nel Salmo che si dice subito quello di Ashrei Shvevetecha, c'è scritto che Hashem raddrizza coloro che sono piegati. Ciò che abbiamo descritto nel modo di piegare le ginocchia, di inchinarsi, riguarda quando la formula è Baruch Atah, e quando diciamo la parola Hashem già siamo raddrizzati, vero? Ma uno di questi quattro punti della Midah non inizia con Baruch Atah, che è quello di Modim. Modim anachnu lach. Allora lì, in quel caso, ora ci spiega. Vehen be modim. Korea u mishtachave. Vekodem shomeret Hashem zokef. Anche nel modim ci si piega le ginocchia e ci si inchina e si assicura di essere raddrizzati prima di dire il nome di Hashem. In pratica nel modim, quello che molti usano è che all'inizio del modim non ci si piega le ginocchia, semplicemente ci si inchina. Modim anachnu lach shatahu, e piano piano ci si raddrizza. Quando si dice Hashem Elokeinu, già siamo raddrizzati. Com'è? Io faccio il contrario, Cioè? che prima piego a modim, piego con le ginocchia, poi alla fine normalmente. No, invece no. Invece deve far Era contrario. quando è Baruch Atah, è sempre Baruch piegando le Sì, ginocchia, Atah inchinandosi. che poi c'è segnato Il qualcuno. modem invece era Cioè, la senza piegazione delle piegare ginocchia è le ginocchia. Il modim solamente invece è direttamente sì. piegandosi. Alla sì. prima berakà, diciamo. Pure quella La senza prima, piegarsi. sì. E poi Sì, dopo perché solamente piegarsi non vuol inchinarsi. dire ginocchia. A modim inchinarsi. Ammonì, sì. Però c'è proprio Sì, ma non è la ginocchia. pullama, e poi Quindi c'è invece quell'altra che di si inchinarsi. inchina. Sì, quello sì. Sempre inchinarsi. Sì. Mai piegare le ginocchia. No, quando c'è Baruch si piega le ginocchia, No, Atah si inchina. c'è no, Baruch, Atah, Shem, Ah, Atov, Shimcha, Ulechana, Ele, Odot. Questa è la perché chiusura sto di passo Modim. solo invece di Adesso tutti vediamo, i adesso vediamo. 19? Adesso vediamo, un attimo solo. Un attimino che aggiungiamo un'altra norma riguardante questi inchini. Lo yishtachaveh yoter midai. La persona non si deve piegare, inchinare troppo, più del necessario. Dehainu, come si definisce più del necessario? Dehainu, cioè, seguiamo il testo. Dehainu, e cioè, ad sheyeh piv keneged hachagor. Cioè, tanto, uno si inchina tanto, quanto arriva che il viso arriva all'altezza della cintura. Allora, questo è esagerato, perché è considerato, chiseu derech yohara, è considerato un comportamento immodesto, nel senso, è come uno che dice, guarda fino a che punto io mi inchino. Non è una buona usanza, è Esagerazione. un'esagerazione. Vezaken vechole, shemitztaer bikriya, se una persona è troppo anziana gli disturba il fatto di inchinarsi, oppure se sta male o con la schiena o con qualcosa e ha difficoltà ad inchinarsi, mitztaer, gli provoca dolore nel momento in cui si dovesse inchinare o piegarsi le ginocchia, allora lì l'alakha è facilitante e dice che Ivan shehirkin roshò, dal momento che china lievemente la testa solamente, da yo gli è sufficiente. Ora aggiunge un'altra cosa, a cui alludeva prima Yosef. Assur, è vietato, le hosif ishtachavayot, di aggiungere ulteriori inchini, be yetera berachot, nelle altre berachot dell'Amida, solo in queste quattro bisogna inchinarsi, e non nelle altre, lo bitchillatan ve lo besofan, né al loro inizio né pure alla loro conclusione. Perché visto che hanno indicato i Chachamim questi quattro, chi aggiunge di nuovo diventa un discorso, come abbiamo detto, di Yohara, come di immodestia, come dire io posso fare di più di quello che è richiesto, che non è considerata una bella usanza, un bel modo di fare. Questo è uno dei motivi. Svizzera. Ok, fino a qui ci siamo? Sì. Molto bene. Allora proseguiamo al paragrafo 12. Se if you'd bet. Le'achar Hashem Onesre, dopo l'Amidah, Omrim si aggiunge un altro brano che è intitolato Elokai Netzor Leshonim Era, eccetera. Cioè noi facciamo tutta l'Amidah, che conclude in realtà con Amevarech et Amo Israel Bashalom, e poi aggiungiamo un altro brano in cui chiediamo che la nostra tefila sia accettata e aggiungiamo qualche richiesta. Poi, Vekodem Ose Shalom, prima di concludere con la frase di Ose Shalom Bimromav, Corea, la persona si china lievemente, Uposea Kach Shalosh Psiot, e con la testa chinata prende tre passi indietro. Che Eved Haniftar Merabò, come si comporta un servitore che si congeda dal proprio padrone, dal proprio signore. Che tipo di passi bisogna prendere? Apisiot Yiyu Beinoniot. Sempre per il discorso della modestia nei comportamenti, del modo, diciamo, giusto, i passi dovrebbero essere di lunghezza media, beinoniot media, ule kola pachot, e come minimo, almeno, in modo tale che dei sheiten agudal bezad akev, che l'alluce di un piede venga a trovarsi vicino al tallone dell'altro, cioè non meno di questo, che sono passi troppo piccoli. Almeno che l'inizio di un piede va alla fine dell'altro. O un passo di formica, diciamo. Sì, o poco di più, però non meno di questo, che non è anche quello, cioè esagerare nel passo troppo piccolo anche non è normale. E quindi dice, velo yifsapis yod gassot, salute. Grazie. Non si devono fare dei passi troppo grandi, appunto, ve lo ifsa yoter mi shalosh psiot, e non fare più di tre passi. Ok? Ma l'inchina è solamente davanti oppure a destra e a sinistra? Allora vediamo. Allora, questi passi iniziamo a farli prima il piede destro, sinistro, scusate. Posea techila beregel semol. Si fa prima il passo indietro, muovendo per prima il sinistro. Acharkach beregel yamine, poi il piede destro. Veshuv posea beregel semol. E poi un altro con il piede sinistro, e questi sono i tre passi. Quindi sinistro, destro, sinistro, e poi ora descrive cosa si fa a quel punto. Ve odehu bikria, mentre ancora con la testa chinata, Ofech panav lismolo, si gira la testa, gira la testa verso la sua sinistra, ci si volta verso sinistra. Shehu yemin hashechina, sheike negdo bisheata tefila, che sarebbe come a dire la destra della presenza divina davanti alla quale ti trovi, davanti alla quale ti sei posto in tefila, in momento di preghiera. Ubezeitomina tefila, e quindi quando si congeda da quella posizione di stare davanti ad Akadosh Baruch Hu in tefila, Omer dice, Ose Shalom Bimromav, si dice Ose Shalom Bimromav, cosa non hai capito? Allora, io mi volto che verso, ti spiego? Io mi volto verso sinistra, sì, che sarebbe la destra di chi mi sta davanti. Al contrario. Esatto. È quello, adesso. Cioè, se io vengo davanti al Signore, sì, per così dire, in preghiera, allora mi volto prima verso la sua destra, per così dire. Okay. E la sinistra nostra. Esatto, okay. E dico, Ose Shalom Bimromav, poi mi volto verso destra, Veofech Panav Limino, Shussemo la Shekhinah, sì, che è come dire, okay, la sinistra della presenza divina che gli sta davanti, e dice il proseguo della frase che è Hu Yase Shalom Aleinu, e poi china di nuovo verso il davanti, dritto, Vacharkach Mishtachavel Lefanav, e si inchina frontalmente e dice Ve'al kol Yisrael vimeru amen, conclude la frase dicendo Ve'al kol Yisrael vimeru amen. Achar kach zokef, e poi si raddrizza, ve'omer Yehi Ratzon sheibaneh Bet HaMikdash, e conclude con la frase che sia la volontà di HaKadosh Baruch Hu che il Bet HaMikdash sia ricostruito presto nei nostri giorni. Con questo si conclude, perché proprio lì si dice questo, che a tefillah abim kom avodah, perché la preghiera prende anche il posto del servizio che viene effettuato nel Bet HaMikdash. Quindi, ve'lachen, e perciò, anu mitpallelim, al binyan Beit HaMikdash, noi preghiamo per la che sia ricostruito il Beit HaMikdash, shenuchal la'asot et ha'avodah mamash, che potessimo fare il servizio vero e proprio, non solamente quello che prende il posto del servizio, ma il servizio vero e proprio, bimhera bi'amenu, presto ai nostri giorni. E quindi abbiamo detto piede sinistro, piede destro, piede sinistro, voltandosi verso sinistra, Osè Shalom Bimeromav, voltandosi verso destra, Huya Osè Shalom Aleinu, chinandosi frontalmente, Ve'al Kol Yisrael Vimeru Amen, e poi si conclude, e si rifanno, si riva Si al proprio riparte col posto, sinistro col destro. però, per andare avanti. Ah, destro, sinistro, destro. Indietro col sinistro, avanti col destro. Importante è come è più che altro il sinistro all'inizio. Ah, ok. Ora dice, il motivo per cui si inizia appunto con il sinistro, Ve'atam, la motivazione per la quale she posein tehillah, che si prendono i passi prima iniziando beregel semol, con il piede sinistro, lefishe derech halichota adam hu, il modo normale in cui bisogna porsi quando abitualmente si inizia a camminare è la correghe gli ammin tehillah, è prima spostarsi con il destro. Velachen, e proprio per questo facciamo il contrario, okerkan semol tehillah, per indicare che la cosa ci è come difficile, non vogliamo concludere. Leharot che ilu kavedalav, per dimostrare come se fosse difficile per la persona, lipatermi lifnei HaMakom Baruch Hu, congedarsi dinanzi al Signore Baruch Hu. Cioè, la persona dice, mi devo allontanare dal Signore, la cosa mi grava, mi è difficile. Velachen, e perciò, iter regel, una persona che è mancino di piede, cioè che usa più prevalentemente il piede sinistro che quello destro, allora al contrario, lui si congeda muovendo prima il piede destro. Perché questo è il Il motivo, concetto è no? quello. Il concetto è quello. Oker techilas semolo, prende prima il piede destro, su yamin kol adam. Molti sono ambidestri nei piedi, quindi se uno è ambidestro usa tutti e due i piedi uguali, fa prima il sinistro. Però se uno ha, come ci sono alcuni che sono mancini di piede, Io allora, ok, mancino. allora fai prima il piede destro. Tu sei mancino. Due piedi. Il Mi sono sforzato tanto per calcio fatturare. giocava a Ah calcio sì? con E destra. adesso riesco a farlo come te. Non hai finito il paragrafo? Raff, scusa, Sì, qual è la domanda? però lui quando si presenta mi smolò, vuol dire la destra di Hashem. Essendo mancino, mette il destro, No, giusto? no, Deve sempre mettere il certo, sinistro. lì non c'è il motivo dei piedi. Ecco. Nei Certo, passi dici che si vanno indietro. non i passi, No, il voltare verso nell'inchino. Ah, il destra o voltarsi, sinistra sì. No, nel voltarsi rimane no, uguale per certo. mancino o Mancino destro. destro. Ok, paragrafo 13, Seyfiuddin, prego, Scusa, ma domanda, sì. perché si sta parlando di questi aspetti qui? Ma due domande. Una dei passi iniziali, perché c'è tutto un dettaglio sui passi conclusivi e non ci sono anche i passetti iniziali. E poi non dice, non c'è nulla sulla frase di una reazione di Mefi di conclusione. È incluso nel brano Elokai Netzor. Non è che dice qui tutte le frasi No, che no, si no, per dicono. sapere se era una No, frase da sottolineare per l'ultima qualche parola, motivo, ecco. l'ultima Se non lo due dice è scritta perché è piccolo, già è un piccolo non valore. rubata nel. Sì, qui non sta dicendo tutte le cose che bisogna Sì, dire. di solito quattro volte. Ma sì, No, però io a faccio parte sempre la l'inchinarsi, se domanda c'era perché un solo qualche concetto da riferire a quattro quella frase. veracotte, non tutte. Come? Faccio sempre la domanda perché solo quattro veracotte Perché l'inchinante ha detto all'inizio e che alla no. fine. Per Sì, ma non tutte. questo, per indicare l'inizio e la fine. Ah. Per ciò che riguarda invece i passi prima, infatti non tutti usano farli. L'importante però è stare, come abbiamo studiato già, in piedi, Sì, quella è senza la appoggiarsi a posizione, niente e con i sì. piedi uniti, cosa che spesso vedo che molti non fanno, cioè magari si muovono durante l'Amida anche di poco. Bisognerebbe rimanere fermi con i piedi uniti, senza Non si deve appoggiare poi. appoggiarsi. Particolarmente importante anche per persone che sono in Teva, fanno la ripetizione dell'Amida, magari per la Berakah ci si muove per Sì, dare la per Berakah a quello. questo, a quello. Sì. Bisogna stare con i piedi uniti, fermi, Soldati. come soldati. Dom. Allora, paragrafo 13 continua a descrivere la situazione del momento in cui la persona ha fatto i tre passi indietro e dice: Bemakom shekalu hapesiot, il luogo in cui la persona si trova, il punto in cui si trova terminando i tre passi, yamod beraglaim mechuvanot, rimanga ancora lì, fermo con i piedi uniti, che mo batefilah, come nella Amidah stessa. Velo yachzir panav la marave, non si volga la persona verso ovest, cioè dietro front, ok? Velo yachzor limkomo, e non torni al proprio posto. Stiamo parlando di una persona che sta pregando al tempio, stiamo aspettando che inizi la ripetizione dell'Amidah, torniamo indietro i tre passi, facciamo Oseh Shalom, rimaniamo fermi lì finché non inizia la ripetizione e si arriva alla Kedushah. Quando si sta per arrivare alla Kedushah, come per esempio se l'ufficiante dice Baruch Atah Hashem, inizia a dire Mechayem Metim, quando lui dice Baruch Atah Hashem, noi rifacciamo i tre passi che ci riportano al nostro posto, dove abbiamo fatto la Tefilah, e lì, con i piedi sempre uniti, facciamo la Kedushah e rispondiamo Kadosh Kadosh, Quindi un eccetera, attimo eccetera. prima di che stia per iniziare la Kedushah, sì. Questo sarebbe il modo migliore, cioè dopo aver finito l'Amidah, rimaniamo lì nel punto in cui abbiamo fatto i tre passi indietro, abbiamo detto Oseh Shalom e abbiamo concluso tutto, attendiamo lì in silenzio con i piedi uniti e ci riportiamo al nostro posto in modo tale che quando si inizia la Kedushah noi risiamo al nostro posto. Ok? Questo è il modo ideale. Se una persona invece pregasse senza Minyan, come noi per esempio oggi qui non c'era Minyan, o se uno prega a casa, allora in quel caso anche bisognerebbe attendere qualche momento prima di ritornare avanti dopo aver fatto i tre passi indietro, come adesso spiega. Prima si conclude la frase precedente, cioè Velo yachazor limkomo, la persona non torni idealmente al proprio posto, ad sheyagia hashaliach tzibur li kedusha, finché lo Shaliach Tzibur, cioè l'ufficiante, non arriva al punto della ripetizione in cui si dice la Kedushah. Al momento che si inizia la Kedushah, noi già siamo al nostro posto di origine, avendo rifatto i tre passi in avanti. E adesso aggiunge appunto quello che dicevamo riguardo quando non c'è Minyan, e così anche che c'è Mitpallel bichidut, quando la persona prega da sola, nel senso che senza Minyan, Yamod Keshiurze, attenda il tempo che ci si metterebbe se ci fosse Minyan. Vuol dire, se per esempio io concludo l'Amidah, calcolo il minuto, 2 minuti che ci vogliono per iniziare la ripetizione e arrivare alla Kedushah, e poi prendo i tre passi avanti. Cioè non faccio tre passi indietro e subito ho finito e con un attimino di calma, rispetto, Quando uno prega da solo. anche quando prega da solo. Ora dice, Vim hamakom tsar vedachuk, se il posto dove ci si trova, cioè magari c'è molta gente al tempio, no? È stretto e scomodo, potrebbe darsi che tu fai tre passi indietro, ma non è ideale rimanere e aspettare lì. Allora cosa fa? Choser, oppure aspetta, vechen che sheomrim piyutim, oppure in alcune occasioni speciali, prima di arrivare alla Kedushah ci sono dei piyutim, dei canti particolari, in maniera specifica questo si fa in occasioni come Rosh Hashanah, Kippur, dove inizia la ripetizione e poi si iniziano a fare dei piyutim, delle poesie all'interno della ripetizione, tante cose finché si arriva alla Kedushah. Allora non è che in quel caso devi stare lì con i piedi uniti, tre passi indietro per 20 minuti finché si arriva alla Kedushah. In quel caso, nel caso fosse stretto e scomodo, allora si aspetta un po', cioè, Choser, si ritorna indietro, che Shematri la Shaliach Tzibur HaTefilah, semplicemente quando l'officiante inizia la ripetizione. Allora quello è sufficiente per tornare al proprio posto. Ok? L'inizio si attende non la Kedushah, quindi nel caso, ma l'inizio della ripetizione. Scusate, paragrafo 14, Seif Yud-Dalet. Leggiamo. Il comportamento della persona durante l'Amidah. Qui vedremo qualcosa simile a quello che abbiamo già studiato riguardo lo Shema. Per ciò che riguarda le interruzioni. Bit filat Shemon Esre, cioè nella tefilah dell'Amidah, Lo yirmoz be'enav, la persona non interrompa, anche se non parla, ma semplicemente fare un cenno con gli occhi, yirmoz, fare un cenno con gli occhi, non si fa. Ve lo ikrotz bisfatav, o un movimento delle labbra per indicare qualcosa. Oppure lo yarebbe etzbeotav, oppure indicare con le dita o con il dito. Veino posek, e non si interrompe, quindi non solo non si può interrompere in queste maniere, che uno potrebbe pensare questa non è una vera interruzione, comunque nell'Amidah questa è considerata una interruzione e non la si fa, ma non solo, anche interruzioni più legittime in teoria, come rispondere Amen al Kaddish o Baruch al Barehu o alla Kedushah, affilu veino posek, non si interrompe anche in queste occasioni, affilu persino per il Kaddish o Kedushah o Barehu, anche per le occasioni in cui il pubblico deve rispondere normalmente. Anche in queste circostanze non si risponde, ma ella non è che si prosegue per la propria Amidah, yishtok, bensì si rimane in silenzio, si attende che si dica la Kedushah, per esempio, o il Kaddish, lo si rende ascolto, rimanendo in silenzio, senza rispondere se ci troviamo nell'Amidah, e dopo che è finita quella Kedushah, esempio, proseguiamo Ricomincia. nella nostra Amidah Allora pure silenziosa. Esattamente. se sente il Kaddish uno si deve fermare. Ella yishtok. Non si interrompe, ah, scusa. Deve Dimmi. fermare. Non si interrompe per nessuna risposta, però si rispetta il fatto che si La sta Kedushah è proseguendo, fermare. ascolta, fermandosi in qualsiasi punto, anche fosse metà frase o metà berakah, metà. È meglio se non è una metafrase, però se proprio lì è entrato, è Sì, entrato. ok. Ella yishtok vichaven. Le mashe omrim ashliach tzibur ve atzibur, ovvero yishtok sia rimanga in silenzio e abbia, diciamo, segua con il pensiero ciò e con l'ascolto quanto stanno dicendo l'officiante e il pubblico. Ve yechashev lo che onne, e gli sarà considerato come se avesse risposto le inyan ze sheyotze. Cioè, da una parte è considerato come se avesse risposto, perché per alcuni aspetti di Halakha, e se vi ricordate c'è stato un momento l'anno scorso che abbiamo dedicato una lezione intera a questo tema di Shomea che Oneh sul Talmud di Rosh Hashanah. Shomea, colui che ascolta, che Oneh, è come se rispondesse. Ok? Quindi da una parte lui sta in silenzio, colui che sta facendo l'Amidah, per ascoltare, che non è solamente una forma di rispetto, ma è anche una forma di partecipazione, anche se passiva, ma tuttavia considerata una partecipazione, quindi che one, come se rispondesse. D'altronde, visto che comunque non esprime qualcosa con la parola, non è considerata una interruzione all'interno dell'Amidah. Perché in teoria uno potrebbe dire, se io sto partecipando, è come se interrompessi. Cioè, però sì, è come se partecipassi, ma comunque non è un'interruzione perché non stai effettivamente parlando. È un'interruzione di pensiero, un'interruzione della Sì, però. concentrazione di quello che uno sta dicendo in quel Sì, ma lui momento. può Ma pensare se che lui è sì. considerato come se Sì, rispondesse, allora uno almeno potrebbe dire quella. forse è Sì, un'interruzione? sì, sì. Perché qui stiamo un po' prendendo il filo da tutte e due le parti. Stiamo dicendo da una parte è come se partecipassi, ma Ma poi dall'altra puoi non è sentire. un'interruzione. Quindi è una novità, diciamo, a livello Cioè, alafico. puoi fare niente, puoi usare così. Cioè, io Non puoi fare nella né Kedushah così sapevo né così. solo concludiamo, scusa la frase, un mikol makom e tuttavia lo nechshav lehefsek, non è considerata un'interruzione. Ma questo è solo fino a che non si è concluso Baruch Ata Hashem HaMevarech Et Amo Yisrael Bashalom, che è l'ultima Berachah dell'Amidah. Poi proseguiamo con Elokai Netzor, Yule Ratzon Elokai Netzor. Allora, lì è già permesso interrompere per alcune cose. Quindi Interrompere proprio. nel pezzo che dicevi prima, che si L'ultimo pezzo, aggiunge, l'ultimo sì. paragrafo. Sì. Aval bitfilate Elokai Netzor, se già ci troviamo a recitare, concludere la parte più importante dell'Amidah, diciamo la parte centrale dell'Amidah, e stiamo recitando questo brano conclusivo, allora mutar è permesso lehafsik, è permesso interrompere, lidvarim per quelle interruzioni delle quali abbiamo detto shemafsikin be'emtza perek shel birchot kriyat shema o kriyat shema, per le quali si può interrompere anche in mezzo a un paragrafo dello shema e le berachot relative allo shema. Quindi possiamo rispondere alla Kedusha, possiamo dire Modim Anachnu Lach, possiamo rispondere all'Amen della prima metà del Kaddish. Fino da Amiran Be'al Mavim Ro'amen abbiamo detto. Ecco. Solo concludiamo un attimino questo paragrafo, poi sentiamo le domande, c'è prima anche Yosef. Umikol makom, tuttavia, im efsharlo, se ha la possibilità di concludere anche quel brano prima di rispondere, cioè se ha possibilità, Yomar dica prima Tehillah Yiyul Ratzon, che è quella frase conclusiva, Yiyul Ratzon Imrefi Ve'Egyon Libi Lefanecha, eccetera. Se riesce ad arrivare, per esempio, sta arrivando alla Kedushah, allora dice ok, aspetto la Kedushah perché già sto nel brano di Elokai Netzor, però se riesci anche a concludere Yiyul Ratzon è meglio. Poi aggiunge ancora e dice Vim efshar od, se hai ancora un momento disponibile, allora yifsa gam ken gimel pesiot, faccia anche i tre passi indietro, nell'arco delle possibilità. Però se tutto questo non è possibile, già nel brano di Elokai Netzor possiamo rispondere, interrompere per rispondere, per dare queste risposte. Ok? Ok, Yosef, dimmi qual è la domanda. Cioè, quando però io sto facendo la metà Sì? e mi interrompo, cioè smetto di dire la metà perché c'è il, come Sì, si tu chiama? ascolti il Kaddish, per esempio la No, Kedushah. il Kaddish, la Kedushah, ma i tre passi, il passo avanti nella Kedushah, io mi devo stare sempre fermo però. Perché devi fare il passo avanti? Stai in mezzo No. alla Midah. No. Devo iniziare 3 volte. Quando c'è la io poi c'è la Allora, Kedusha. aspetta. Tu hai già Non fatto capito finito bene. la Midah? No, no, Stai in sto mezzo finendo alla la Midah. Navità. E il pubblico sta dicendo la Kedushah. Tu non devi Io fare niente, niente, devi mi devo rimanere rimanere fermo fermo. Ok, basta. e non procedere No, quello sì, ho capito, però ho Perché capito. i tre passi prima della Kedushah creano confusione. Perché? Non è che bisogna fare 3 passi per fare la Kedushah. Ascolta un attimo. Se io entro in un tempio, e io per esempio ho pregato Minchà alle 3 del pomeriggio, arrivo in un tempio perché voglio fare un po' di studio, e lì sono le 5 e loro fanno Minchà alle 5. Entro nel tempio e loro stanno facendo Kedushah. Chiaramente io rispondo alla Kedushah. Ok? Ma non devo fare 3 passi per rispondere a quella Kedushah? I 3 passi della Kedushah non sono della Kedushah, sono semplicemente un'attesa dopo che io ho finito la mia Amidah, non vengo subito avanti con i 3 passi. Come regolo quando venire avanti, aspetto la Kedushah, Sì, ma che sarà nella ripetizione, ma non è che sono i 3 passi per la Kedushah. porta a conclusione Sì, perché, ma un passo perché alla si volta di vede, Kedushah, non è che avete lui lo tre dice passi perché alla si volta. vede chi Non fa è i tre che passi sembra sto come i dicendo 3 sanità. passi Tu stai dicendo la siano Kedushah. Inizi appartenenti, tu tra dici sì, virgolette, infatti, non mi alla ricordo bene, hai Kedushah, detto ma che non ti non fanno. sono appartenenti alla Kedushah, sono la conclusione dell'Amidah. La Sì. Kedushah è un punto di riferimento quando No, rifaccio. Infatti certo. abbiamo detto, se uno prega da solo, Attende un po', come se aspettasse la Kedusha, e fai i Tu tre passi vedi che avanti. c'è chi lo fa, che si muove così, comincia la Kedusha, allora Io ho attacca e fa visto tre qualche passi. volta E lui che. ci ha spiegato che non si fa. Non... Io ho visto qualche volta che qualcuno Sì. finisce la Midah, fa i tre passi avanti, e poi quando si arriva alla Kedusha di nuovo fa tre Fa... passi avanti e tre passi indietro. No, questo non ha nessun senso. Sì. È nel Mi modo che abbiamo ricordo di aver descritto. spiegato. Ok, molto bene. La prossima volta proseguiremo con altre Grazie. norme che riguardano la Amidah. Solo un secondo. Benissimo.